Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro. Nell'ultima abbiamo parlato di Alpi, questa volta invece andiamo da tutt'altra parte del mondo, andiamo infatti in Costa Rica per parlare di un biodigestore, scopriremo tra pochissimo di che cosa si tratta, con un'azienda che noi tutti conosciamo, ovvero Chiquita. È con noi la responsabile della comunicazione di Chiquita Italia, Luciana Luciani, alla quale diamo il benvenuto con noi. Grazie a voi. Come dicevo, parliamo di questo biodigestore che è stato appena inaugurato in Costa Rica, è stato inaugurato addirittura alla presenza della Presidente della Repubblica, Laura Cincilla. Spieghiamo ai nostri ascoltatori che cos'è e quali sono gli scopi per i quali è stato costruito questo biodigestore. Sì, allora, tecnicamente è molto semplice, nel senso che il biodigestore è un impianto che trasforma le biomasse in energia. Che cosa sono le biomasse? Sono per esempio tutti i rifiuti della lavorazione dei prodotti alimentari. In questo caso, nel nostro, ovviamente si tratta degli scarti della lavorazione della frutta. Perché Chiquita noi l'associamo alle banane, ma non è solo banane. No, Chiquita non è solo banane, è principalmente banane, ma non è più solo banane da moltissimo tempo. Per inquadrare il peso delle banane sul giro d'affari complessivo stiamo intorno ad un 50-55%, quindi grosso modo la metà del giro d'affari di Chiquita è determinato da prodotti diversi dalle banane. Questo un po' per inquadrare l'azienda. Il biodigestore che abbiamo inaugurato nella nostra sede in Costa Rica, non la sede di lavorazione delle banane, ma la sede che si chiama Mundimar ed è uno stabilimento appunto di trasformazione della frutta, tra l'altro giusto per dare un dato di misura ne trasforma circa 144.000 tonnellate all'anno, quindi stiamo parlando di un volume consistente, che ha fatto immediatamente pensare, nel momento in cui questo tipo di tecnologia si è resa possibile, all'opportunità di installare un impianto con questo tipo di caratteristiche. Quindi il biodigestore che cosa fa nella sostanza? Trasforma il residuo della lavorazione della frutta in biogas e quindi successivamente in energia elettrica. Quindi noi possiamo dire che da questo impianto che è in funzione da qualche mese in Costa Rica si riescono a produrre circa 600 metri cubi di gas metano per giorno, e per dare un'idea di che cosa significa in termini di energia elettrica possiamo immaginare che soddisfino il fabbisogno di 31 a seconda del consumo poi individuale abitazioni private. Questo è solo l'inizio, perché poi immaginiamo che una volta a regime questo impianto potrà produrre tutta l'energia elettrica che serve a mandare avanti lo stabilimento. Quindi, oltre ad essere l'impianto, un impianto autosufficiente, quindi autonomo da un punto di vista del funzionamento e quindi a non avere un impatto sull'ambiente in termini di produzione di CO2, A medio termine tutto lo stabilimento della Mundimar, quindi di trasformazione della frutta in Costa Rica, avrà un impatto zero sull'inquinamento dell'ambiente. Lavorazione della frutta cosa si intende? Cosa si fa lì? Lavorazione della frutta si intende, per esempio, noi abbiamo molte piantagioni di banane in Costa Rica. Sappiamo che i criteri di selezione che vengono applicati dall'azienda sono dei criteri molto rigidi, quindi molto del prodotto, circa la metà, giusto per dare un'idea sempre in termini quantitativi, circa la metà del prodotto che viene raccolto dalle piante viene scartato, ma è uno scartato tra virgolette, nel senso che comunque si tratta di banane che, pur non raggiungendo gli standard previsti per avere il bollino blu ed essere poi commercializzati, sono comunque dell'ottima frutta. Quindi questa frutta viene trasferita in questi impianti, in questi stabilimenti, trasformata in puree, trasformata in prodotti che poi vanno ad essere utilizzati come base o come ingredienti per i succhi di frutta, per i frullati, per gli omogeneizzati o per qualsiasi altro prodotto che ha bisogno di una base di frutta per essere immesso sul commercio. Gli scarti della lavorazione di questa frutta, quindi supponiamo la buccia oppure i noccioli oppure le parti che vengono comunque scartate perché non hanno nemmeno le caratteristiche per diventare purè, vengono immessi in questo impianto e costituiscono appunto la biomassa che dà poi la possibilità di produrre energia all'interno del biodigestore. E questo è il dato finale, abbiamo il biodigestore. Questo però si inserisce in un contesto più ampio di lavoro di Chiquita, si comincia addirittura dal 92. Poi ci sono, per quanto ricordo io, almeno delle richieste specifiche da parte del Costa Rica stesso come paese, che ha sicuramente influito sulle decisioni nel corso degli anni di Chiquita, ma c'è anche una strategia aziendale che punta in questa direzione. Sì, diciamo che allora le direttrici sono sicuramente due, lei le ha individuate molto bene. Una è quella di corrispondere a quelli che sono i criteri di sostenibilità strategici di un paese come il Costa Rica, che ha fatto evidentemente dell'ambiente uno dei pilastri della sua economia, e quindi le aziende che ci lavorano in qualche misura devono corrispondere a questo tipo di criteri adeguandosi alla strategia del paese. L'altra invece è una direttrice molto più elaborata in maniera non suggerita, diciamo, molto più spontanea da parte di Chiquita, risale al 92 come lei ricordava, e all'incontro che noi abbiamo fatto con Rainforest Alliance, una ONG americana che si occupa appunto di promuovere la diffusione di criteri di agricoltura sostenibili e che abbiano come risultato finale la conservazione dell'ambiente e la protezione poi anche dell'uomo, perché evidentemente dagli ecosistemi gli uomini dipendono. E quindi noi abbiamo aderito al programma di Rainforest Alliance nel 92 e abbiamo iniziato a sperimentare il loro standard di agricoltura per la produzione delle banane, in particolare in alcune piantagioni in Costa Rica. Quindi il Costa Rica in qualche misura ritorna sempre nella strategia di Chiquita un po' come il paese pilota. Poi c'è un motivo per questo? Perché non so, il Costa Rica si presta di più o semplicemente Chiquita ci lavora di più? No, non c'è una ragione legata al modo di operare dell'azienda, ma è evidente che il Costa Rica, avendo appunto la sensibilità di cui si parlava prima, è un paese nel quale un certo tipo di progetti, un certo tipo di anche di progetti pilota, come è stato quello nel 92 per lo standard della Rainforest Alliance per noi, si rendono più facilmente realizzabili proprio perché c'è un contesto che è più facilmente stimolabile, anche da un punto di vista proprio della popolazione. Quindi, mi diceva, si comincia da questi progetti di agricoltura sostenibile. Quali sono? Facciamo un esempio di cosa è stato fatto all'inizio, almeno, per poi alla fine si è arrivati fino alla produzione di energia, ma all'inizio con cosa si è fatto? All'inizio si è dovuto trasformare un sistema di lavoro, questo in maniera molto, molto concreta, non è esagerato dire che c'è stata una vera e propria rivoluzione all'interno del sistema produttivo, quindi sono state cambiate completamente le infrastrutture, sono stati investiti solo nei primi 3-4 anni e solo per l'adeguamento delle infrastrutture più di 20 milioni di dollari. Si sono adeguati gli impianti, si sono applicate queste linee guida del protocollo di Rainforest Alliance, che prevedono appunto, sono 10 regole fondamentali, ma ognuna poi di queste regole si suddivide in molte richieste, molto rigide peraltro in alcuni ambiti, come anche non solo ed esclusivamente per il rispetto dell'ambiente, ma anche per il trattamento dei lavoratori, e quindi sul piano anche sociale standard che riguarda i lavoratori. Sì, assolutamente sì, ci sono delle regole che prevedono appunto che ci sia un sistema di trattamento dei lavoratori che sia assolutamente in linea non solo con le leggi dei paesi nei quali si opera, ma anche con criteri molto più stringenti e molto più selettivi. Nei paesi di cui stiamo parlando, quindi nei paesi centroamericani, non sempre la legge garantisce, non sempre la legge è totalmente garantista nei confronti del lavoratore, in questo caso lo standard di Rainforest Alliance è ancor più lo standard del SAO 8000, che poi anche quello per noi è un faro di riferimento, coprono e integrano la legge in maniera ancora più stringente. Questo standard che voi avete cominciato ad applicare a partire dal Costa Rica, poi dopo è stato esteso anche agli altre aree di produzione di Chiquita nel resto dell'America Latina? Sì, assolutamente. Dal 2005 poi di fatto, anzi mi scusi, dal 2000 tutte le piantagioni di proprietà di Chiquita in tutti i paesi dove Chiquita opera sono certificate. Avviati questi progetti nel 92, siete riusciti a fare dei calcoli dei benefici che hanno apportato queste modifiche al vostro modo di lavoro, all'approccio al territorio che avete avuto fino a quel momento? Per esempio, dire che per esempio per quanto riguarda la parte che impone il riciclo dei materiali plastici, Chiquita ha realizzato un sistema per cui ogni anno si riciclano 3.200 tonnellate di plastica. Che cosa significa questo? Significa che in termini di derivati dal petrolio c'è un risparmio di 850 tonnellate, quindi anche guardando questi numeri ed interpretandoli in chiave di che cosa significa poi nel sistema della produzione e nei suoi vantaggi da un punto di vista della sostenibilità, possiamo sicuramente parlare di numeri importanti. Possiamo dire per esempio che la riduzione dell'uso di pesticidi è stata drastica e praticamente si sono sostituiti tutti gli erbicidi o quasi tutti gli erbicidi con erbe tappezzanti, quindi questo ha anche un impatto sulla sicurezza del prodotto poi in termini ultimativi. Senta, questi numeri fanno capire bene quanto, diciamo, bene abbia fatto questo intervento all'ambiente. Ha fatto bene anche all'azienda risparmiare su questi capitoli di spesa? È stato positivo oppure c'è ancora molto da ammortare di quello che sono stati gli investimenti iniziali? No, io direi, non conosco i numeri da questo punto di vista in maniera precisa, ma io so perfettamente che per esempio i costi di produzione sono diminuiti a fronte di un prodotto che ha uno standard di qualità che anche nella peggiore delle ipotesi, nella peggiore delle condizioni climatiche è pari e uguale alle caratteristiche che poteva avere prima, con in realtà invece una media di qualità superiore nell'arco dell'anno e nell'arco della stagionalità produttiva. Possiamo dire per esempio che la riduzione in termini di utilizzo dei pesticidi ha determinato un risparmio, quindi anche lì un taglio dei costi. Sappiamo per esempio che anche nel consumo dell'acqua, visto che ne consumiamo 30 milioni di litri all'anno in meno di prima, c'è stata un'economia di scala. È evidente che i vantaggi sono anche di tipo economico per l'azienda e credo che possiamo tranquillamente parlare di un impegno che qualsiasi azienda, non solo Chiquita, evidentemente affronta se poi si traduce e si trasforma anche in un vantaggio dal punto di vista della profittabilità. No, senz'altro, infatti è un punto che mi piace sempre rimarcare, perché non si tratta solo di investimenti fine a se stessi, ma sono investimenti che poi possono avere ricadute molto positive sull'azienda. Ma assolutamente, anche perché il programma di Corporate and Social Responsibility o di responsabilità di impresa, come vogliamo chiamarlo, di una qualsiasi azienda di solito si fonda su quelli che sono i tre pilastri della sostenibilità e sono appunto la protezione dell'ambiente sicuramente, l'equità sociale che evidentemente ha un suo controvalore, perché per esempio nel nostro caso l'elemento della litigiosità e quindi anche in termini per esempio concretamente di ore di sciopero dei lavoratori noi le abbiamo viste diminuire drasticamente, quindi il contenzioso con il lavoratore è diminuito moltissimo. E poi il terzo pilastro, che è quello della capacità di produrre profitto, perché un'azienda può restare, può sopravvivere, può rimanere sul mercato solo se continua a produrre profitto. Io la ringrazio molto, ricordo Luciana Luciani, responsabile della comunicazione di Chiquita Italia, e spero di ritrovarvi presto con altre iniziative come queste di cui abbiamo parlato oggi. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Respiro termina qui, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Per riascoltarci www.radio24.it ci trovate nella sezione programmi. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto.